A tempo di sport. Buon pomeriggio dunque, finito dunque finalmente il mercato, ieri sera alle 19 in punto con il solito rito tutto italiano della porta sprangata, degli ultimi contratti fatti passare sotto la soglia, insomma molto folklore, ma almeno per quanto riguarda la Serie A poco di concreto, e del resto questo era il mercato della crisi. È finito il mercato, oggi si torna in campo, non c'è più il senso di precarietà che ha dominato ad esempio la prima giornata di campionato una settimana fa. Io vi ricordo i contatti per chiamare 800 24 00 24 per le vostre telefonate, oppure 349 238 6666 per i vostri sms, ma potete anche scriverci su Twitter @ a tempo di sport, su Facebook a tempo di sport _radio24, oppure ancora via mail a tempo di sport @radio24.it. ve li ho detti tutti perché vi invito davvero a scrivere, a chiamare, vogliamo sapere che cosa ne pensate voi di questo mercato, se siete d'accordo ad esempio con la Gazzetta dello Sport che questa mattina assegna un bel 7,5 alla Juventus, oppure con il Corriere dello Sport che sul podio ha messo Roma e Fiorentina. Un saluto da Giovanni Capuano, qui in studio c'è Giorgio De Luca in redazione, c'è Carmine Lauricella in regia, e un saluto anche ad Ernesto Bronzetti. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti, buonasera. Ernesto Bronzetti, che ovviamente ha poco bisogno di presentazioni, è l'uomo che in queste settimane ha cercato di portare Kakà al Milan, non ci è riuscito, evidentemente era un'impresa impossibile, ma comunque è un interlocutore con cui è sempre un piacere parlare di mercato. Bronzetti, quante volte ha fatto davvero il viaggio andata e ritorno Milano-Madrid in queste settimane? Ma diciamo 2-3 volte, ma più che altro soggiornato a Madrid per vedere se si riusciva a scardinare un po', non tanto il Real Madrid, il presidente che è un carissimo amico sia mio personalmente che di Galliani del Milan, eravamo arrivati al dunque, cioè che il giocatore l'avrebbero anche dato in prestito se si poteva aggirare una clausola dove la vecchia fiscalità che era sottoposto Kakà dal contratto che ha, dandolo in prestito, se si poteva, diciamo così, continuava a pagarlo il Real Madrid, il Milan l'avrebbe pagato come prestito oneroso, ma tutto ciò non si poteva fare perché fiscalisti di chiara fama, spagnoli e anche italiani, quando il giocatore a fine anno fosse rientrato a Madrid e ritrovava una fiscalità del 50%. E stiamo parlando di una differenza tra il giorno e la notte per il Real Madrid, assolutamente. Quindi ha deciso il fiscalista nel mercato di quest'anno. Esattamente, in questo senso ha deciso il fiscalista. Dobbiamo abituarci anche a questo. Esattamente, il Milan non si poteva permettere di pagare 10 milioni di euro netti, che sono 20 lordi. Il Real Madrid avrebbe anche contribuito in parte, però ripeto, non ci sono stati proprio i presupposti per farlo. Chi ci ha perso di più nel non riuscire a concretizzare questo ritorno? Ci ha perso di più il Milan, che forse inseguiva un po' una suggestione anche in questo recupero di Kakà. Per certi aspetti sì, perché il Real Madrid, per come la pensa Mourinho, adesso che è arrivato anche Modric, credo che Kakà farà tanta panchina e tanta tribuna, di conseguenza un giocatore che ha 30 anni va scemando, ma io credo che a gennaio Kakà vada via sicuramente, e credo che essendo prigioniero del suo contratto finirà col giocare negli Stati Uniti sicuramente. Sì, molti si chiedono e ci chiedono anche se lo stesso Kakà non poteva forse fare uno sforzo maggiore. Ma l'avrebbe anche fatto, però c'era sempre il problema del prestito, che avrebbe dovuto acquistarlo il Milan, allora però doveva sobbarcarsi 3 anni di contratto, e anche se il giocatore ci ha messo un po' di buona volontà nel ridursi qualcosa, l'avrebbe fatto secondo me, insomma i segnali erano quelli, però il Milan non ha voluto e non ha potuto per certi aspetti, perché è rientrato nell'ordine idea di fare un mercato a risparmio, di risanare i conti, di farsi trovare pronto al fair play finanziario, e di conseguenza è rimasto tale e quale, così Kakà al Real Madrid E il Milan si è accontentato, e poi cercheremo di capire se in realtà gli è andata bene, si è accontentato di Bojan preso in prestito dalla Roma, poi vedremo tra un anno quale sarà il destino dell'attaccante che, ricordiamo, frequenta i campi di calcio da tanto, ma in realtà ha soltanto 21 anni. Bronzetti, il Milan è da scudetto, come dice Galliani, o ha ragione Allegri quando dice che si lotta per i primi tre posti, ma oltre non ci si può spingere? Ma io... non so, se mi fate una domanda da addetto ai lavori, da rispondo ai lavori. In un modo, se mi fate una domanda da tifoso rispondo allo stesso modo. Come dire, io vedo la Juventus, la squadra più organizzata, più pronta, più rinforzata, e subito dopo metto il Napoli. Molti dicono l'Inter, dicono la Roma, io dico il Napoli perché ha un allenatore, Mazzarri, molto similare a Conte, un allenatore sanguigno, un allenatore che tira fuori il massimo dai giocatori. Non aver venduto Cavani sicuramente è stato un bel colpo, e la vedo proiettata il Napoli. La Roma ha cambiato molto, una squadra giovane, questo gioco di Zeman che ci farà sicuramente divertire. Non lo so fin dove potrà portarlo. È da verificare poi alla prova dei risultati. Sul Milan, fortunatamente quest'ultimo acquisto di De Jong ha dato un po' di equilibrio, però... Però serve qualcos'altro, serviva probabilmente qualcos'altro. Sinceramente, la mia paura, e mi auguro, giuro che mi auguro di sbagliarmi, è che abbiamo brutte esperienze con i giocatori spagnoli. In Italia non funzionano, cultura, mentalità, non so che cos'è, ma in Italia non funzionano. Basta guardare un po' a ritroso i vari Josemari, i vari Farinós, Mendieta e tanti altri. Jose anche l'anno scorso alla Roma è stato rimpacchettato, rispedito. Non funzionano in Italia. Non funziona. Kerkic, nonostante un cognome serbo, croato, non so, è nato e vissuto in Spagna, insomma. Sì, è un prodotto del Barcellona, mi fanno un po' paura. Io mi auguro, ripeto, giuro che sono convinto di quello che ti mi auguro di no, però ho paura che non funzionano, funzionano. A proposito di Milan, poi facciamo due chiacchiere anche sul top player che non è arrivato alla Juventus. Da casa, via SMS al 349-238-6666, ci chiedono di Montolivo, perché oggi Mario Sconcerti sul Corriere della Sera l'ha promosso, però è un acquisto che ai tifosi del Milan piace poco, e forse quello che hanno visto in campo nel debutto contro la Sampdoria gli è piaciuto ancora meno. Ma devo rispondere sempre. Cosa facciamo? Lo promuoviamo o è rivedibile nel suo ruolo? È un buon giocatore, un ottimo giocatore, ma non è un top, secondo me. Ecco, non me ne voglia né Montolivo né il Milan. Per me non è un top. Non è, è un giocatore che... Cioè, il top è Pirlo, ecco. Il top è, in quel ruolo parlo, De Rossi. Il top è, anche se sono giocatori un po' diversi, top sono altri, insomma. Per me è un giocatore bravo, però secondo me non è il Milan in quel ruolo. Non dimentichiamo che ha avuto Pirlo per tanti anni, ha avuto per come sta giocando adesso Montolivo, no? Davanti alla difesa, giù di lì, ha avuto i Rijkaard, ha avuto giocatori di altro spessore, insomma. Diciamo che possiamo rivederlo con De Jong a fianco. Ernesto Bronzetti, perché non è arrivato il top player alla Juventus? Quest'anno in fondo i presupposti c'erano tutti, c'era un budget, o almeno a giugno Agnelli e Marotto lo avevano dichiarato, c'era la vetrina della Champions League, una società tornata grande con lo scudetto, l'ha inseguita per tutta l'estate, perché non è arrivato? Ma secondo me si sono fossilizzati troppo su nomi inaccessibili. Di Llorente sappiamo tutti, i baschi quando dicono la cosa difficilmente mollano. Suarez era incedibile, lo sapevano, e poi c'era lui, non voleva venire in Italia. C'è stata un po' di inesperienza sul mercato a questi livelli. Marotta è uno che ne sa di calcio e sa, è stato, probabilmente non ha avuto coraggio andarla a prendere nei momenti giusti. Il calcio mercato è una cosa un po' ambigua, strana, e secondo me doveva prenderlo nel momento giusto, cioè tipo un mese e mezzo fa, prima di prendere magari altri giocatori. Se quello era il fine, il top player, secondo me doveva arrivare al momento giusto. Hanno imbarogliato troppo cercando di bloccare due o tre giocatori che poi si sapeva che alla fine non sarebbero arrivati, Van Persie, eccetera, eccetera. Quando siamo arrivati al dunque, si sono dovuti accontentare di questo Breitner, che sì, è certamente lui, un ripiego, considerato i nomi, sì, insomma, magari farà 20 gol, che erano circolati. Tutti a dire bravo Marotta, bravo Paratici, ci hanno fatto bene, me lo auguro, però certo che sulla carta non è un top, voglio dire. A proposito, Bronzetti di 20 gol. È stato un momento che si poteva prendere Viglia, per esempio, del Barcellona. Poteva essere una scommessa, ad esempio, anche Pepito Rossi, è vero che è fuori fino a gennaio. È fuori, però poteva cioè, secondo me il giocatore che avrebbero dovuto prendere e che se forzavano un po' la mano era il top, era Higuain. Per me questo era l'attaccante giusto. Poteva venire via da Madrid. È stato un momento che poteva veramente venire via. Da casa ci chiedono, visto che parlavamo di sorprese, tra tutti quelli arrivati, chi si può pensare tra un anno possa diventare un uomo mercato? Viene citato l'esempio di Ramirez, che è arrivato in Italia quasi sconosciuto e diciamo è stato valorizzato e bene dal Bologna. Ma guarda, ce ne sono tanti nella Roma che sono per la massa, diciamo, no? Non per gli addetti ai lavori, per la massa sono dei grandi sconosciuti. Vengono da Sud America molti, eccetera. Io penso che dalla Roma io punto molto su un italiano che è destro, sinceramente. Per me, se si ripete ai livelli di Siena le stesse cose le fanno la Roma, potrebbe diventare, con un maestro come Gemmero, potrebbe veramente diventare il top. E poi attenzione a questo bambino, chiamiamolo così, preso dal Milan, perché ha delle qualità immense. E stiamo parlando di Niang. Bronzetti, sentiamo insieme Maurizio da Roma, a proposito di Roma, sentiamo cosa ha da dirci. Maurizio, buon pomeriggio. Buonasera, dottor Capuano, io sono un tifoso del Milan. Prego. E niente, io mi fa anche piacere che c'è il dottor Bronzetti, perché così, visto che c'ha contatti con Galliani, vuol dire al dottor Galliani che noi tifosi siamo stanchi di essere presi in giro, cioè voler far passare il Milan come una squadra da scudetto. Ha ragione Allegri, secondo lei, insomma. È una balla spaziale, noi siamo da decimo posto, ma si rendono conto, tra le tante critiche che si possono muovere, ce n'è una in particolare che è evidentissima, cioè abbiamo un attacco di tuffi. Un attacco senza peso e senza centimetri. Robinho, Pato, El Shaarawy, sono tutti giocatori leggeri, il più alto è 1,80 m. Si sono resi conto, contro la Sampdoria, per poter colpire di testa è dovuto andare avanti Yepes. Avevano 3 giorni, 4 giorni e hanno rincorso Kakà, il fantasma di Kakà. Beh, c'è anche Pazzini. Grazie Maurizio. Bronzetti, c'è chi ha scritto e detto che in realtà con l'arrivo di Bojan Allegri in mano una squadra per costruire un progetto modello Barcellona, adesso senza voler bestemmiare. Ma attenzione, vabbè, non facciamo paragoni. Allegri è un ottimo allenatore, è chiaro che ha perso un uomo da 30 gol che è Ibrahimovic, ha perso il miglior difensore del mondo, rimpiazzare questi due pezzi è molto ma molto ma molto difficile. Io l'ho detto poc'anzi, non vedo il Milan al top, non lo vedo e me ne rammario, perché tra l'altro io come tanti altri colleghi, che una volta sono milanista, una volta interista, una volta io dico sono milanista dalla nascita e basta, di conseguenza si figuri. Io, per come ha parlato l'ascoltatore di poco fa, io non darei, non è che Galliani non ha bisogno di difese perché si difende bene da solo, ma Galliani ha una proprietà alle spalle e non è il padrone del Milan, di conseguenza forse pochi sanno, lo posso dire in anteprima o lo posso dire con molta, io ho visto Galliani piangere quando devo firmare il contratto di Kakà, ho anche un filmato che tengo rigorosamente per me chiuso in cassaforte. Galliani, sì giuro, ho visto Galliani e Florentino Perez, è l'avvocato del Real Madrid, prima di firmare Florentino disse Adriano ti vedo in difficoltà, se vuoi strappiamo tutto. Lui gli scapparono 2 lacrimotti e disse purtroppo metà sono amministratore delegato e responsabile dei conti del Milan, l'altra metà sono tifoso. Sicuramente il cuore di Galliani ha sanguinato anche quest'estate. Non per niente, poi abbiamo sopra di noi abbiamo dei padroni, è una brutta parola, come si dice, dei capi, e di conseguenza dobbiamo a volte attenerci a queste cose. L'operazione perfetta era stata fatta a gennaio, per esempio, quando era stato venduto Pato per 34 milioni di euro ed era stato acquistato Tevez per 24. Sì, un po' di sana autocritica, ad esempio, a mesi vuole, di distanza perché ci vorrebbe. Sinceramente, l'operazione fu bloccata, come quando fu venduto Galan 6 mesi prima al Manchester City per 109 milioni, contratti firmati, poi 3 mesi dopo è venduto per 67. Voglio dire, ci sono degli errori. Con questo non voglio incolpare la proprietà, però sì, però di sicuro non è Gagliani che decide, altrimenti avesse deciso col suo cuore difficilmente avrebbe venduto Thiago Silva. Gagliani era a Londra per firmare il contratto di Tevez, attenzione, io ero a Parigi, ero a Parigi per fare il contratto di Pato, insomma non scherziamo su queste cose, ci sono non dico testimonianze perché non ne abbiamo bisogno, le verità sono queste. È riletta a 6 mesi di distanza, quello è probabilmente un errore che poi ha aperto la strada a quest'estate di cessioni importanti. Sì, beh, secondo me avrebbe vinto il campionato, al di là di montare o non montare col dentro col fuori, pallone dentro o fuori, però avrebbe, con un Tevez in più avrebbe vinto sicuramente il campionato. Io abuso ancora della pazienza davvero per due Prego. Minuti di Ernesto Bronzetti. Sentiamo Santo dalla provincia di Treviso. Santo, buon pomeriggio. Sì, salve, buonasera dottor Capuano. Niente, io sento parlare, vabbè, Juve, Milan, Inter, cioè addirittura il Milan a terzo posto. Non è che gli voglio male al Milan, però cioè, non sento mai parlare della Fiorentina che secondo me ha degli ottimi giocatori, ha fatto veramente una campagna acquisti pazzesca. E la Fiorentina dov'è che la mandiamo? Già in Serie B? E adesso lo chiediamo a Bronzetti. No, perché secondo me cioè, a livello di giocatori quest'anno penso che la famiglia della Valle abbia fatto un'ottima squadra. E poi, io credo Santo, esatto, io poi credo che la famiglia della Valle vada ringraziata per aver resistito alle pressioni per Jovetic, in un'estate in cui sono andati via in tanti, quasi tutti i top player del nostro campionato, poter vedere Jovetic è un piacere al di là della maglia che indossa o del tifo che si fa. Ernesto. Allora, sulla Fiorentina non posso che spendere parole ottime. Diciamo che ha saputo dire il Padre Nostro, ma non ha detto così sia. In che senso? Il più grande acquisto della Fiorentina si chiama Vincenzo Montella, innanzitutto. Per me è un allenatore top, nel vero senso della parola. Prestissimo lo vedremo nei grandissimi club. Per tutto il resto hanno fatto un grandissimo lavoro, prima di tutto quello di trattenere Jovetic. Hanno preso degli ottimi giocatori, ho dei dubbi sul centrocampista, anche se domenica ho visto che ha giocato abbastanza bene, Borja Valero, torniamo al discorso degli spagnoli. Che sono sempre un rischio. Sono sempre, mi auguro di sbagliare. È raramente una certezza. Ecco, esatto, ha fatto un'ottima campagna acquisti, però siccome le partite si vincono con gli attaccanti e si cerca di non perdere con i difensori, insomma, io avrei l'attaccante, il primo come il portiere, è il primo nome da mettere dentro, voglio dire. È mancato adesso, qualcosa. Con tutto il rispetto per Toni, speriamo che faccia 20 gol, me lo auguro per lui e per la Fiorentina e per i Della Valle, quale sono anche abbastanza amico sia di Andrea che di Diego. Ma quello che volevo dire è lì ci voleva un colpetto giusto per prendere un attaccante da 15. Mi sono meravigliato come mai non abbiano preso Boriello, insomma un giocatore che bene o male sì, dopo aver inseguito Berbatov esatto. Poteva esserci Boriello. Prima di farle l'ultima domanda a proposito di Berbatov, il suo debutto non è stato fortunato perché ha perso insomma alla prima di Premier League 3-0 esatto contro il West Ham. A proposito di Premier League, sta perdendo in casa lo Swansea quando mancano 25 minuti 1-2 contro il Sunderland. Swansea che fin qui era a punteggio pieno, così come l'Everton che sta perdendo in casa del West Bromwich, sta vincendo il Tottenham 1-0. Il meglio però deve ancora venire alle 18:30, ma alle 17:30 scusate, Manchester City QPR, poi tutte le grandi domani. L'ultima domanda con risposta flash: è visto ieri sera Radamel Falcao, quanto può valere il centravanti dell'Atletico Madrid? Perché poi si è parlato tanto di top player, l'impressione vista la tripletta di ieri sera è che la prima punta più forte che c'è in questo momento al mondo sia rimasta dov'era, e in una società che i suoi big non è in grado di blindarli. Bronzetti. Ma io pensate che ho iniziato a fare i miei lavori, chiamiamo così, in Spagna, proprio con Miguel Angel Gil, il mio grandissimo amico, portaifieri, se ben ricordate, anni fa, proprio all'Atletico Madrid. Era 2 o 3 anni che inseguiva questo giocatore. Pensate che ha voluto vendere Torres proprio per prendere questo giocatore. Sia lui che García Pitar, suo direttore sportivo, amavano, tant'è vero che venduto Torres lo hanno pagato 40 milioni di giocatore euro. Giocatore straordinario. Non è che l'hanno pagato due soldi, insomma, voglio dire. Però è un giocatore effettivamente straordinario. Oggi il suo valore... questo è un giocatore che lo può prendere, ecco, Paris Saint Germain, lo può prendere Manchester City, lo può prendere queste due squadre. Di sicuro è fuori dai nostri radar. Neanche il Chelsea, guardate, di sicuro è fuori dai nostri radar. È forse dei nostri, il giocatore oramai da 70-80 milioni di euro. Va bene, grazie Ernesto Bronzetti. Grazie per la pazienza, grazie per essere stato con noi. A presto. Sì, buonasera. Saluto Giovanni Galeone, buon pomeriggio. Buongiorno a voi. Adesso parliamo di Massimiliano Allegri. Prima però, siccome con Bronzetti abbiamo parlato di Falcao, che è il giocatore la cui valutazione oggi e soprattutto alla luce di quanto abbiamo visto ieri sera è, secondo gli esperti di mercato, 70-80 milioni di euro, c'è un attaccante italiano che ha già attaccato il prezzo il cartellino con il prezzo ed è Cavani. Costerà 63 milioni di euro l'anno prossimo se qualcuno lo vorrà prendere. E sentite che cosa ha detto oggi Mazzarri a proposito del rinnovo firmato ieri da Cavani e De Laurentiis. Sono contento, l'importante l'ho detto al ragazzo, al giocatore, al campione, definitelo voi come, per me sono ragazzi, che lui sia rimasto, ecco perché sono contento che sia veramente soddisfatto in tutto, che sia rimasto con le motivazioni che ha avuto il primo anno e il secondo qui a Napoli. Lui deve cercare di non pensare di arrivare a una certa quota gol, ma deve pensare, come ha fatto dal primo giorno in cui è venuto, di giocare per la squadra, come ha fatto vedere anche a Palermo. Prima conta il risultato di squadra e lui, con la forza che ha, con la squadra che gli gioca intorno, potrà ripetersi e forse anche migliorarsi. Questo per me è importantissimo. Questo Mazzarri. Galeone, gira la testa a sentire certe quotazioni, però è anche vero che Cavani ha dimostrato di essere un top player, è il termine che adesso va di moda, e se si chiedono 80-90 milioni per Falcao è ragionevole che De Laurentiis ne chieda una cinquantina o anche 60 per Cavani. Insomma, i valori di mercato sono questi. I valori di mercato vengono dati anche dalle richieste che si hanno dei vari giocatori. Cavani è uno dei giocatori più richiesti, il prezzo mi sembra molto alto effettivamente, però è un ragazzo che negli ultimi anni ha fatto molto bene. Pensare che quando è arrivato a Palermo, io l'avevo visto la prima volta a Udine, un Palermo veramente bruttissimo da vedere, parlavo con un mio ex collaboratore, un giocatore che era Massara, che collaborava con Sabatini, allora direttore sportivo. E dopo 5 minuti io dissi: cavolo, quel giocatore lì, che bel giocatore che è. Si è visto subito che era buono, che aveva i numeri. Baricchi mi rispose subito: mister, però non fa mai gol. Ho detto: fagli fare anche gol, questo qui diventa un fenomeno. Me lo ricorderò sempre, questa battuta che mi disse: ma Sara, mister, però questo non fa mai gol. Insomma, ci aveva visto no. Giusto in quel caso Zamparini. Fagli fare anche gol, gli ho detto. Questo è un fenomeno. Galeone, noi però l'abbiamo chiamata per Massimiliano Allegri perché quella di Allegri è stata una settimana difficile. Io credo che lei abbia letto e sentito, ma in ogni caso le facciamo risentire le parole che giovedì notte ha riservato Galliani al tecnico del Milan. Sentiamolo. Adesso però il signor Allegri si deve preoccupare perché l'obiettivo del terzo posto non è più quello, adesso deve giocare per lottare, per vincere, come abbiamo fatto negli ultimi 2 anni. Le è piaciuto il signor Allegri, che Galliani ha riservato a Massimiliano Allegri un minuto dopo aver finito di cenare con De Jong, che secondo l'amministratore delegato del Milan è il giocatore che farà fare il salto di qualità alla squadra rossonera? De Jong è un ottimo giocatore, ha ragione a dire che è un ottimo giocatore, così come lo è Boja, sicuramente. Era un fenomeno a 17 anni quando giocava nel Barça, non vedo perché dovrebbe essere adesso un bidone. Io sono stato diverse volte l'anno scorso a Milano, sia a Milanello che a cena la sera, così con Allegri e con il dottor Galliani, con l'amministratore delegato, ho sempre visto che c'era un ottimo rapporto tra loro due. C'è l'impressione che si sia rotto qualcosa, insomma. Non lo so, io ho sentito. È stata un'estate difficile. Ho sentito Allegri pochi giorni fa e mi sembra molto sereno, molto tranquillo, dice di avere un ottimo gruppo, ben affiatato, che ha voglia di lavorare e che quindi lui ritiene di essere in grado di migliorare. Ho sentito, devo dire la verità, anche Torgagliani per un'altra questione, così così abbia fatto un paio di risate al telefono, e mi è sembrato molto, molto tranquillo anche lui. È chiaro che magari è venuta fuori qualche battuta in più, è stato venduto qualche giocatore importante, il Milan ha perso dei giocatori importantissimi come Thiago, come Ibrahimovic, come Nesta, come Zambrotta, come Gattuso, insomma la grande vecchia guardia del Milan non c'è più, bisogna lavorare, bisogna fare bene quest'anno. È chiaro che all'inizio sul mercato era abbastanza evidente che la Juventus aveva lavorato bene nonostante la vittoria dello scudetto. Allegri si aspettava che dopo le cessioni si aspettava qualcosa di diverso, qualcosa di importante che non era arrivato. Adesso penso che lui pensava di Arà, questi giocatori qui, però credo che sia contentissimo anche di De Jong. Ha scritto Galeone. Ha scritto Alberto Costa oggi sul Corriere della Sera: sono tutti invitati al Milan a remare nella stessa direzione. Il compito dell'allenatore non è semplice e per questo scaricargli addosso pressioni aggiuntive come ha fatto a Gagliani rischia di essere controproducente. Forse Allegri, che ha parlato anche scherzando di essere rimasto un po' per fare il capro espiatorio, respira questo clima comunque in cui alla fine verrà chiesto conto a lui del risultato di questo campionato e probabilmente un terzo, un secondo posto non saranno accettati dalla proprietà. Ma io penso che non verranno accettati neanche da Allegri i terzi posti, non penso proprio. Certo che lui il primo anno ha fatto benissimo, nel secondo anno ha perso un campionato un po' strano, dico la verità, non credevo riuscisse il Milan a perdere quel campionato dell'anno scorso, anche se la Juve ha fatto benissimo. Probabilmente hanno sbagliato qualche strategia così, di impegno, anche soprattutto con l'interesse troppo importante verso la Coppa Italia, dove sono stati fatti giocare dei giocatori le settimane prima. Sì, c'è stato un errore di gestione nel momento decisivo, dove si è perso Thiago Silva. Dove si è perso Thiago, quando c'erano le partite con la Roma e il Barcellona. Ecco, probabilmente qualche errore è stato fatto l'anno scorso, però aveva già vinto una Supercoppa, insomma, credo che abbia fatto male Allegri del Milan. Quest'anno forse sì, non era contentissimo di come stavano andando le cose. E quindi è nata un po' di tensione. Si è sentito un pochino sotto pressione, io lo conosco, un ragazzo molto, molto sereno, molto deciso nelle cose che vuol fare e che sa fare, quindi credo che tutto si ricucirà, sperando che già da stasera cominci il Milan a mostrare qualcosina di meglio di quello che non abbia fatto fino adesso. Anche se De Jong e Bojan siedono almeno all'inizio in panchina, lo sentiamo Allegri ieri fare il conto dei punti e dei trofei vinti in due anni di Milan? Sentiamolo Allegri. Se non avesse avuto l'entusiasmo sarei andato via. Avrei chiamato il dottor Galeani, il presidente, e ha detto che non aveva avuto più l'entusiasmo di rimanere al Milan e sarei andato via. È normale che so che quando viene praticamente smantellata una squadra, perché praticamente sono andati via, se no facevamo sempre gli stessi discorsi, 10 giocatori più 2 campionissimi, è normale che la squadra piaccia o non piaccia, riparte da zero, con giocatori di diverse qualità, con caratteristiche diverse, con una squadra molto, al momento, più giovane, perché abbiamo in attacco abbiamo Bojan che ha 22 anni, e Sharawi 19, Niang 17, Pato 22, e abbiamo solo Pazzini e Robinho 28 e 28, quindi credo che sono giocatori che devono migliorare, bisogna farlo attraverso risultati, scordandoci, mettendo da parte quello che è stato il Milan fino al 30 maggio, al 15 maggio dell'anno scorso. Galeone, piaccia o non piaccia, comunque ha voluto mettere Massimiliano Allegri i puntini sulle i. Anche questa però io credo sia una dimostrazione di carattere, che alla fine, insomma, per reggere alle pressioni che ci sono in queste grandi squadre sia un pregio e non un difetto. Ma lo è sicuramente, però io la vedo alla stessa maniera di Allegri. Molte volte le squadre ritardano, le società soprattutto, ritardano a riprendere, a cambiare il cammino, perché sono molto legati a giocatori che hanno fatto la loro storia, giustamente, giustamente, ma c'è sempre un fatto affettivo che qualche volta ritarda il cambiamento di una squadra, è il futuro di una squadra. Il Milan non per niente, dopo che hanno smesso i vari Costa Curta, Baresi, Maldini, cosa, e compagnia bella, i Tassotti e quella gente lì non ha vinto niente per un sacco d'anni, 6 anni, 7 anni, non lo so. Ed era successo all'Inter stesso, prima che arrivasse poi Mancini e quindi Mourinho, eccetera. Ed era successo alla Juventus. Quando si hanno dei cambi generazionali, inutile, ci vuole un po' di tempo. Quando ti vengono a mancare 10 giocatori, perché Max ha detto 2 campionissimi, ma Seedorf non è che fosse un picco. Sì, manca tutto, mancano tutti i senatori e poi si è aggiunta la perdita di Ibrahimovic e Thiago Silva. Thiago Silva più la grande vecchia guardia che aveva fatto grande il Milan, per cui ha ragione lui quando dice adesso c'è bisogno di un pochino di tempo. Se tu riesci nel frattempo a impiegare poco per gli inserimenti, ad avere subito la fortuna di qualche risultato, tanto di guadagnato, altrimenti devi avere un minimo di pazienza e lo deve avere, credo, anche la società. E bisogna anche saper aspettare i progetti perché possano maturare. In un minuto le chiedo, lei si aspetta già di vedere questa sera a Bologna il segno di un cambiamento? Noi abbiamo detto che Bojan e De Jong partono ovviamente dalla panchina perché di fatto non hanno avuto tempo quasi di allenarsi con Allegri ed è difficile mettere a punto certi meccanismi, però è vero che dopo la brutta sconfitta alla prima a San Siro contro la Sampdoria in qualche modo ci deve essere subito una svolta. Sì, non è facilissimo Bologna, l'anno scorso il Milan ha faticato parecchio, l'ho vista con la partita dal vivo, con la Sampdoria non ha giocato sicuramente bene il Milan, non da Milan e non da grande squadra. Però c'è da dire anche che insomma un minimo di fortuna non l'ha avuta a suo favore. Sì, in qualche modo poteva anche pareggiare. In qualche modo poteva pareggiare, quindi attutire la delusione e dei tifosi e della dirigenza. Però penso che già qualcosa si possa vedere. In più c'è da dire che l'anno scorso Van Bommel iniziò subito a giocare e trovò subito, anche se da mediano forse la prima partita, trovò subito la facilità a inserirsi del Milan. Questi sono giocatori, soprattutto gli olandesi, che hanno grande facilità a inserirsi, perché tatticamente sono bravissimi. Sì, mi viene in mente anche Sneijder. Sì, Sneijder con l'Inter, buttato in campo nel derby. Con Mourinho, nel derby, prima partita appena arrivato. Sì, sono giocatori, gli olandesi sono giocatori che non hanno bisogno di tanto tempo. No. Galeone, io le chiedo. Sono molto bravi. Io le chiedo. È un giocatore che è talmente bravo, poi a estro, a numeri, a colpi, può mettere i suoi colpi a vantaggio della squadra. Forse non entrerà subito nei meccanismi, però può vincere anche, può risolvere una partita anche tecnicamente da solo. Sì, rischia di essere sottovalutato come acquisto. Prima di chiedergli l'ultima risposta su davvero chi si è uscito rinforzato da questo mercato, sentiamo Giorgio da Milano. Giorgio, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio. Volevo fare una considerazione che andava un po' fuori tema, diciamo. Spesso anche su queste frequenze sento che ci si lamenta degli stadi vuoti e si dà la colpa dagli stadi vecchi, scomodi, non moderni, diciamo, senza ristoranti, ma col problema degli ultra sono pericolosi. Però, cioè, come mai per Inter Hajduk e Inter Varsui con dei prezzi 5 euro lo stadio era pieno, questi problemi sono scomparsi, c'erano anche famiglie con i bambini. Quindi lei dice colpa dei prezzi? Direi proprio di sì. Perché con 5 euro lo stadio, nonostante tutti questi problemi, era pieno, per delle partite insignificanti, con del risultato che sulla carta, anche se poi si è visto che anche non se era poi non è stato lì, così. Infatti, era già acquisito partite che in teoria non dovevano dire nulla, 40.000 persone c'erano. Grazie Giorgio. Galeone, forse visto che ripartiamo dal nostro anno zero, l'abbiamo visto anche sul mercato, potrebbe essere l'occasione per fare un bagno di umiltà anche in alcune scelte strategiche per riavvicinare la gente agli stadi. Io sottolineo, non l'ha scritto nessuno, che la prima giornata nello scorso weekend è stata la peggiore come presenze negli ultimi 5 anni e non c'entra il fatto che si sia giocato nel mese di agosto, siamo andati poco sopra le 23.000 presenze di media negli stadi italiani, non facevamo così male da 5 anni. Galeone. qualcosa bisognerà fare. Gli stadi di proprietà sono una delle soluzioni più importanti, più interessanti, l'ha dimostrato la Juve lo scorso anno. È utile avere stadi da 80-90 mila persone che non riesci a riempire, e soprattutto riportare le famiglie allo stadio, come diceva giustamente, anche con una politica dei prezzi, come diceva giustamente il vostro ascoltatore di Milano. Grazie Giovanni Galeone. Grazie a voi. Grazie, a presto. Intanto sono in chiusura le partite della Premier di questo pomeriggio, e allora rapidamente 2-2 tra Swansea e Sunderland, 1-1 fra Tottenham e Norwich, ha perso 2-0 l'Everton contro il West Bromwich, 2-2 tra Wigan e Stoke, tra mezz'oretta circa tocca al Manchester City contro il QPR. In Germania hanno vinto il Werder Brema contro l'Hamburgo, l'Eintracht Francoforte fuori casa 4-0 contro l'Hoffenheim, che ha chiuso in 9, e poi ci sono le vittorie del Bayer Leverkusen 2-0 contro il Friburgo, dello Schalke 04 3-1 contro l'Augsburg, e il pareggio del Borussia Dortmund 1-1 a Norimberga. Domani, abbiamo detto, c'è Inter-Roma, e allora andiamoci a sentire stramaccioni su Zeman, perché domani è la sfida tra l'allenatore più vecchio Zeman, che c'è in Serie A, e quello anagraficamente più giovane, e cioè Stramaccioni. Sentiamo il tecnico dell'Inter. Zeman allenava e io non ero neanche nato, quindi ho scoperto che è del 47, che è la stessa età di mio padre, quindi io penso che il mister sia il mister. Per un allenatore giovane come me, lui rappresenta un precursore di un modo di fare calcio. Quindi io, già gliel'ho detto di persona, lo ammiro tantissimo. E adesso siamo rivali, ovviamente noi proveremo a vincere la partita come facciamo sempre. E per quanto riguarda lui, l'ho detto altre volte, io credo che lui non si possa imitare. L'ho già detto, ma in maniera molto serena, nel senso anche studiandolo. Secondo me lui non si può imitare, perché lui ha un suo modo di proporre calcio particolare, integralista, e lo vive come, giustamente, come una fede nel suo credo. Questo stramaccioni su Zeman. Domani non c'è soltanto Inter-Roma, c'è anche un interessantissimo Udinese-Juventus, e allora sentiamo come l'ha preparata Carrera. È una pillola velocissima, la sentiamo. No, sicuramente sarà un inserimento graduale, anche perché lui è arrivato, era 10 giorni che non si allenava, quindi dovrà fare dei test, poi è squalificato in nazionale, quindi avrà molto tempo per mettersi a disposizione. Sappiamo le sue caratteristiche, poi sicuramente sarà il campo, sempre come è successo anche l'anno scorso, a decidere se giocherà o no. Sappiamo quello che ci può dare questo giocatore. È normale che gli obiettivi che noi volevamo, colpa della crisi, non sono stati irraggiungibili, quindi c'è stata questa opportunità e l'abbiamo fatta sapendo quello che può darci questo giocatore. Stava parlando ovviamente di Nicolas Bentner, ha detto praticamente che non era l'attaccante che Conte si aspettava, ma questo è quello che ci ha mandato il mercato europeo. Buon pomeriggio Filippo Maria Ricci da Madrid, corrispondente della Gazzetta dello Sport. Buon pomeriggio. E dobbiamo accontentarci. Si aspettavano Llorente probabilmente, ma anche Llorente si aspettava la Juve. Sì, colpa della crisi, no? Non solo, colpa anche di una relazione tra Llorente e l'Atletico, che si è deteriorata e si è praticamente rotta, e niente, l'Atletico Bilbao ha fatto muro, forte anche dei 40 milioni incassati per Javi Martinez, e Llorente è rimasto lì, e adesso vediamo cosa ci fanno. Perché è vero che a gennaio, come scrivono oggi i giornali spagnoli, andrà gratis o quasi al Barcellona, è uno scenario credibile? Ma quello lo scrive solo, mi sembra, lo Sport, Mondo Deportivo. Allora, tanto a gennaio non va da nessuna parte, perché non è che si va via ancora a gennaio dovrebbero pagarlo. Il Barcellona cosa ci fa? Oggi mi sembra la risposta migliore l'abbia data Villanova in conferenza stampa. Gli hanno chiesto di Falcao e ha detto sì, che Falcao è uno dei, probabilmente, forse il miglior centravanti che c'è, dice, un grandissimo giocatore, ma a noi non servirebbe, perché avremmo bisogno di cambiare il modulo di gioco. Figuriamoci se devono cambiare con Falcao, con Llorente devono cambiare totalmente. E il centravanti del Barcellona è Messi, e quindi per me Llorente al Barcellona non andrà mai. Llorente aspetterà fino al giugno prossimo, potrà accordarsi da gennaio con chi vuole, Io continuo a pensare e anche un po' a sperare, perché mi farebbe piacere vederlo lì, che alla fine riesca ad andare alla Juventus. Certo, diciamo che in Italia abbiamo fatto tanto folklore, soprattutto nell'ultima giornata, ma poco di concreto. In realtà il meglio del mercato a livello europeo nelle ultime ore ce l'ha regalato l'Inghilterra insieme alla Spagna. C'è Sien che è andato al Real Madrid, Javi Garcia al Manchester City, Llorì, il portiere del Lione, che è passato al Tottenham, poi Van der Vaart all'Amburgo, e poi ancora la Sana Diarra, che dal Real sta per andare all'Angie. Diciamo che la crisi c'è, soprattutto in Spagna ha colpito, però esistono ancora dei margini di spesa che noi non abbiamo. Beh, guarda, non sono del tutto, adesso non so la cifra finale della Serie A della spesa, non la conosco, però ti posso dire, siamo sotto della i 400 milioni, siamo intorno ai 380. Beh, qui siamo a 120, per cui siamo decisamente sottotono. L'anno scorso sono stati spesi 310 milioni, quest'anno praticamente di questi poi 120 milioni, diciamo più o meno, che sono stati spesi in Spagna, la metà sono stati spesi da Real Madrid e Barcellona, che comunque hanno comprato tre giocatori, niente di più. Quindi qua secondo me la crisi si è veramente fatta sentire, tanti movimenti, quasi tutti in prestito, cioè il Malaga per esempio ha preso quattro giocatori negli ultimi giorni, non ha speso una lira, e molte squadre hanno speso meno di Real, delle seconde squadre di Real e Barcellona. Secondo me è qui sono stati fatti più soldi in entrata, già solo le vendite di Casorla e Javi Martinez sono abbastanza indicative. Sì, c'è il Malaga che a un certo punto era un outlet da cui tutti potevano pescare. Si sono spostati i valori tra Real Madrid e Barcellona, perché la finale di Supercoppa ha dato un verdetto contrastante. Diciamo la verità, l'andata è piaciuto il Barcellona, al ritorno è piaciuto in maniera particolare il Real Madrid. Sembra che il gap si sia un po' accorciato rispetto a quello che abbiamo visto negli anni scorsi. Probabilmente Villanova non è ancora Guardiola, ammesso che lo diventi mai. No, certo, beh, il gap comunque si era accorciato già con Guardiola, perché non dimentichiamoci che il Madrid ha vinto a casa del Barça la sua ultima Liga, vincendo lì il Classico, questo è stato, insomma, è lì che si è deciso il campionato. Per me non c'è ormai, il gap quasi non c'è, e anzi poi la partita è aperta, ecco, abbiamo visto all'andata vantaggio per il Barça, ritorno vantaggio per il Madrid, soprattutto nel primo tempo, e sono due squadre vicinissime, insomma, le partite poi sono, adesso fortunatamente è calata un po' l'intensità, la brutta faccia del Classico, è rimasto quasi solo il gioco, che è grandissimo, insomma, si stanno trasformando in partite, non in guerra, almeno poi esatto. Vediamo fino a che non si tratterà di giocarsi la Liga, esatto, o la Champions. Però sono partite, le due squadre sono alla pari per me in questo momento. Adesso vediamo, in campionato è divertente il fatto che comunque il Madrid in due giornate debba già recuperare 5 punti. Insomma, è un gap non da poco, Filippo? No, nella Liga soprattutto, dove si tende a vincere molto, è interessante. È una partenza difficile. Io ti ringrazio, noi siamo in chiusura. Grazie a Filippo Maria Ricci. Io ringrazio anche Giorgio De Luca in redazione, Carmine Lauricella in regia. Domani siamo in onda a partire dalle 17. Parleremo molto di Bologna-Milan di questa sera. Lo faremo con un ospite d'eccezione che è Stefano Pioli, l'allenatore del Bologna. Quindi se volete mandarci le vostre domande, scriveteci anche via mail. Domani dalle 17 alle 18 ancora a Tempo di Sport. Grazie per essere stati con noi.